zucchero e pepe è una monella originale, picchiatella, ecco perché più monella non c'è. Tutta delizia, tutto candore, croce delizia ad ogni cuore, sempre sarà, per più di lamerà. Zucchero e pepe, zucchero e pepe, son tutto zucchero i tuoi baci quando vuoi. Zucchero e pepe, zucchero e pepe, ma tutto pepe sono i miei capricci tuoi. Come per gioco col tuo fare indifferente, scherzi col fuoco e non ti importa mai di niente. Zucchero e pepe, son tutto zucchero i tuoi baci, son tutto pepe i tuoi capricci, ma per amore o per dispetto a tutti piaci. Come la vedi te ne innamori, come le credi son dolori, forse perché se ne ride di te. Oggi ridendo sfugge l'amore, forse credendo che il suo cuore mai amerà, ma quel giorno verrà. Zucchero e pepe, zucchero e pepe, son tutto zucchero i tuoi baci quando vuoi. Zucchero e pepe, ma tutto pepe sono i miei capricci tuoi. Come per gioco col tuo fare indifferente, scherzi col fuoco e non ti importa mai di niente. Zucchero e pepe, son tutto zucchero i tuoi baci, son tutto pepe i tuoi capricci, ma per amore o per dispetto a tutti piaci. Zucchero e pepe, son tutto zucchero i tuoi baci quando vuoi. Zucchero e pepe, ma tutto pepe sono i miei capricci tuoi. Come per gioco col tuo fare indifferente, scherzi col fuoco e non ti importa mai di niente. Zucchero e pepe, zucchero e pepe, son tutto zucchero i tuoi baci, son tutto pepe i tuoi capricci, ma per amore e per rispetto a tutti piaci. Zucchero e pepe, zucchero e pepe, zucchero e pepe, zucchero e pepe, zucchero e pepe. Zucchero e pepe, zucchero e pepe, son tutto zucchero i tuoi baci, son tutto pepe i tuoi capricci, ma per amore o per dispetto a tutti piaci. Zucchero e pepe, zucchero, zucchero, pepe, pepe. Zucchero e pepe.